Rolando Galluzzi e Armando Ottaiano per parlare con loro, visto che ne sono gli autori, del libro Il Verano, Paradiso degli Artisti, che sarà presentato giovedì 15 febbraio alla libreria Borri Books a Roma. E intanto benvenuti. Grazie. Allora, per chi ci ascolta, diamo subito qualche indicazione di cosa parla questo libro. Libro si compone di due parti e prende ispirazione dalla storia autobiografica di Armando Ottaiano, che a 13 anni scappa da Napoli, viene a Roma al Cimitero del Verano, poi ve lo racconterà lui, e a trovare il suo idolo che è Edoardo De Filippo. E su questo racconto poi io mi sono occupato della parte storica dell'edificazione del cimitero, della parte filosofica sull'aldilà, degli epitaffi. E all'interno c'è anche una guida agli artisti che sono sepolti nel cimitero e non solo al Verano, ma anche negli altri. È un omaggio, non è una cosa triste, anzi è una cosa divertente, interessante. Armando, ci racconti un po' com'è partito tutto? Allora, sì, la novella praticamente parla proprio di me, della mia storia autobiografica, ovviamente romanzata. Io sono di Napoli e il 2 novembre andavo a trovare mio nonno al cimitero Santa Maria del Pianto a Napoli, e a fianco riposava Antonio De Curtis in arte Totò. Io non potevo credere che Totò era sepolto vicino a mio nonno, a fianco. Ho sempre voluto fare l'attore. E quel giorno dentro di me è scattata una scintilla. Quindi ho domandato proprio quel giorno al custode del cimitero: scusate, ma la tomba di Edoardo De Filippo, ma dov'è? E il custode mi fa: è a Roma. Io la notte ho sognato Totò che mi dice: vai giù, tu devi andare a Roma al Verano. E io così feci, veramente. Sono arrivato a Roma e ho trovato Edoardo De Filippo, e da lì non mi è bastato. Ho voluto ricostruire tutta la mappa di tutti gli artisti che hanno fatto la storia della cultura italiana, quindi non solo cinema, teatro, ma anche pittori, poeti. Ho ricostruito tutta la mappa, tutto un archivio intero, ben 454 tombe trovate al Cimitero del Verano, una lista inedita, mai uscita prima. A questo punto torniamo a Rolando. Rolando, ci racconti un po' delle tue ricerche? Beh, sì, Campo Verano viene realizzato nell'Ottocento e anche qui una storia dell'umanità, nel senso che fino all'editto di Saint-Cloud, l'editto napoleonico del 1812, le sepolture, i poveracci, la plebe venivano gettati nelle fosse comuni e lì arrivederci e grazie, come si suol dire, mentre chi nella società aveva potere, i nobili, i commercianti, eccetera, avevano sepolture individuali nelle chiese, nelle abbazie, e quanto più si era ricchi o potenti, e più si veniva sepolti sotto il pavimento della chiesa con la tomba individuale, appunto. Con l'editto di Saint-Cloud, in cui vengono, come dire, istituiti i cimiteri, anche a Roma viene presa in considerazione questa cosa. Poi insomma, le vicende di quegli anni sono appunto i francesi a Roma, e poi il papato riprende il suo ruolo, e comunque, visto che qualche anno prima c'era stata una peste dove sono stati migliaia di morti, si decide di realizzare quello che era Campo Verano, dove 2000 anni fa già sorgevano delle catacombe dette di Santa Ciriaca, su 72 ettari, un cimitero, il primo cimitero di Roma. Viene realizzato quando a Roma c'era una popolazione di circa 400-500 mila abitanti. E quindi le ricerche sono state appunto nel nel raccontare questa storia e nel raccontare l'edificazione della basilica vicino, la basilica di San Lorenzo fuori le mura. E anche lì ci sono pagine, pagine, pagine dettagliate sulla storia della basilica. E poi c'è una zona che poi, se vuoi, se volete, vi leggo qualche epitaffio che racconta un po' anche lì diciamo, l'aldilà con un po' di ironia. E poi le ricerche sono andate anche nel dedicare un capitolo a come l'umanità vede l'aldilà. Quindi come la vedevano le popolazioni celtiche, come la vedevano gli etruschi, i latini, i cristiani, i musulmani e gli ebrei. Sì. Roma, torni. Senti, allora, domani, giovedì 15 febbraio, c'è a Borri Books la presentazione. Io vi chiedo anche dei riferimenti web per saperne di più, se avete una pagina Facebook, un sito internet. Certo, allora guarda, sicuramente su Borri Book è alla stazione Termini, è una delle più grosse librerie di Roma, alle 18. I riferimenti sulla pagina Facebook c'è proprio un sito che è Il Verano Paradiso degli Artisti, oppure sulla pagina di Roma San Lorenzo che curiamo insieme io e Armando. Benissimo. Voglio ricordare solo una cosa, Certo. domani ci sarà la presentazione, è a cura dell'Associazione Culturale La Strada. Con me ci saranno Rolando Galluzzi, Mario Sesti e Bruno Roberti. Le letture saranno affidate all'attore Lino Musella. Perfetto. Allora io vi ringrazio, un abbraccio, un in bocca al lupo, l'appuntamento l'abbiamo ricordato e a presto. Ok, grazie. Posso dirti un epitaffio? Certo. Sulla tomba di un attore etrusco c'era scritto: sono morto tante volte, ma così mai. Ciao. Ciao.